Canossa, gennaio 1077. Gregorio e Matilde avevano bisogno di tempo per ritrovare il loro amore e riprendersi dopo la snervante ostentazione di pentimento fatta da Enrico. La provvidenza avrebbe fatto loro quella concessione, poiché l'inverno che si avvicinava era troppo rigido per consentire al Papa di tornare a Roma. Gregorio VII avrebbe infatti trovato il modo di trasformare quella visita in un periodo di 6 mesi di pausa da trascorrere in Toscana a fianco della sua diletta che ormai stava per dare alla luce il loro figlio. Riguardo al periodo trascorso da Gregorio e Matilde a Canossa, in seguito il monaco benedettino Donizone avrebbe scritto: come Marta che serviva Gesù riguardosa e ospitale, e come Maria che sedeva ai piedi di Gesù, Matilde ascoltava ogni parola pronunciata da questo papa. Vissero insieme a Canossa come marito e moglie, poiché nella fortezza lavoravano solo i più fidati componenti della cerchia di Matilde, tutti i membri dell'ordine che avevano giurato di mantenere il segreto sulla sposa e sul figlio del pontefice. Fu così che al momento del parto Matilde era circondata da coloro che più l'amavano, con Isabella nei panni della levatrice. Diversamente da quando aveva dato alla luce la sua prima bambina, adesso era al sicuro e a suo agio. Soprattutto era profondamente innamorata dell'uomo di cui stava per mettere al mondo la creatura, un bambino che era stato concepito in modo immacolato, come era scritto nel libro dell'amore, generato da un'unione di fiducia e consapevolezza. Gregorio rimase nella cappella, spesso in compagnia di Con, a pregare per la salute della sua diletta e del nascituro. Il bambino nacque rapidamente e senza troppi sforzi da parte della madre. Era piccolo ma perfettamente proporzionato e il suo vigoroso vagito confermò che era sano e aveva polmoni forti. Matilde singhiozzò sollevata portandoselo al petto. Era infinitamente grata alla provvidenza per averle concesso di dare alla luce quella creatura senza problemi. In quel momento di gioia si rifiutò di pensare al futuro. Non voleva considerare la triste realtà, ossia che non avrebbe mai potuto riconoscere pubblicamente quel bambino come suo figlio. Il mondo non avrebbe mai saputo che Matilde di Canossa aveva dato alla luce quel maschietto e soprattutto che quel maschietto era il figlio del Papa. Matilde si accostò al viso il piccolo e lui la guardò con occhi fin troppo saggi per un neonato. Restò senza fiato, rendendosi conto di aver già incrociato una volta quello sguardo. Quelli che la fissavano erano gli occhi della sua prima figlia, la sventurata neonata che aveva chiamato Beatrice Maddalena pochi minuti prima che esalasse l'ultimo respiro. Possibile che quello fosse lo stesso spirito, lo stesso bambino che ritornava da lei sotto una forma differente? Matilde era certa che gli occhi che stava guardando fossero gli stessi che aveva incrociato per un brevissimo istante in passato. La sua bambina era tornata da lei in un momento e in un luogo in cui il suo spirito sarebbe stato protetto e nutrito. Il tempo ritorna. Il piccolo che lei e Gregorio chiamarono Guidone restò con la madre e il padre finché Gregorio non tornò a Roma. Matilde lo tenne con sé fino al termine dell'estate, quando fu per lei il momento di raggiungere il Papa a Palazzo del Laterano per mettere in atto l'elaborato piano che avevano studiato durante la loro reclusione. Il giorno prima di partire per Roma, Matilde affidò il figlio alla custodia dei frati di San Benedetto Po, fratelli dell'ordine, che lo avrebbero allevato nel rispetto delle sacre tradizioni del loro popolo, e Matilde, a cui non era permesso riconoscere come suo quel bambino, poteva però affidarlo alla protezione della provvidenza. Roma, ottobre 1077. Re Enrico IV aspettò in Lombardia per mesi nel tentativo di valutare la posizione di Gregorio. Aveva anche lui la sua buona dose di problemi, poiché i duchi che avevano preteso che si arrendesse al pontefice erano spaventati dalla sua capacità di cambiare abito così in fretta. Resisi conto che non c'era nessun onore in un re del genere, i duchi ribelli della Germania elessero Rodolfo di Svevia come loro nuovo sovrano. Questa elezione fu appoggiata da una buona metà dei territori tedeschi, mentre l'altra metà restò fedele a Enrico. Si profilava una sanguinosa guerra civile. Tuttavia la cosa non trattenne Enrico dal continuare ad attaccare Gregorio e Matilde. A Canossa i due avevano trascorso i loro mesi escogitando una strategia per proteggere i territori di Matilde nella probabile eventualità che Enrico decidesse di dichiararli confiscati in virtù della legge salica. Come il padre prima di lui, Enrico avrebbe potuto tentare di confiscare tutta la Toscana, poiché Questa faceva parte dei territori feudali del sovrano tedesco. Avrebbe anche potuto decidere di donarli a Goffredo di Buglione, il legittimo erede del Gobbo, in cambio di un giuramento di fedeltà e di una fetta molto grossa dei tributi che avrebbero imposto al popolo toscano. Entrambe le possibilità avrebbero portato l'Italia e la Germania alla guerra e si sarebbero rivelate catastrofiche per Matilde e il Papa. Mentre Matilde e il suo seguito si avvicinavano a Roma, Conn cavalcava al suo fianco. Non sapeva come sarebbe stata accolta dal popolo romano e intendeva starle accanto nel caso di una reazione ostile. La posizione dello stesso Gregorio a Roma al momento era piuttosto precaria, poiché la sua assenza prolungata dal Laterano era risultata assai sgradita sia ai cardinali sia alle famiglie aristocratiche che lo appoggiavano. Tutti biasimavano Matilde e Conn. Temeva possibili rappresaglie. Finora tutto tranquillo, commentò. Matilde annuì. Eh sì, grazie alla divina provvidenza. Cavalcarono in silenzio per qualche istante prima che Matilde parlasse di nuovo. Con, ci riusciremo. Con la dichiarazione che sono pronta a fare, credo che possiamo ottenere ancora una volta l'obbedienza dei romani. Con ci rifletté un momento. Sei sicura di volerlo fare? È un grande rischio, Tilde. Matilde deglutì a fatica. Era nervosa riguardo alla decisione che aveva preso e di conseguenza anche riguardo al proclama che avrebbe presentato a Roma il giorno seguente, ma era altrettanto determinata ad attuarla. È un rischio che sono pronta a correre e che credo salverà Gregorio, quindi è l'unica via di azione che mi rimane. Gregorio per me vale più della vita, persino più della Toscana. Non c'è nulla che non rischierei per lui. Conn annuì in silenzio. Sapeva che era vero che gli piacesse o no. Fu su questo sfondo di incertezza che la contessa di Toscana entrò a Roma, decisa a salvare la sua eredità, a rafforzare la posizione di Gregorio e quella della Chiesa che intendeva riformare e a contrastare una volta per tutte il perfido Enrico. Matilde di Canossa si rivolse al palazzo del Laterano indossando un sontuoso abito di velluto rosso bordato di ermellino e la corona di fiordelis d'oro sul pesante sogolo di seta. Sembrava maestosa e ricca come un'imperatrice. L'aspetto che aveva quel giorno sarebbe stato discusso e registrato da scribi e artisti per i posteri. Davanti a tutte le nobili famiglie romane che erano presenti per assistere alla sua storica dichiarazione, si alzò e lesse ad alta voce il seguente proclama. Io, Matilde, che per grazia di Dio sono contessa di Toscana, per il bene della mia anima e per il bene dei miei parenti, dono e lascio in eredità alla Santa Sede di San Pietro, con la mediazione di Papa Gregorio VII, tutti i miei beni e i miei legittimi possedimenti e tutto ciò che ho ereditato o possiedo di diritto o che per legge mi spetta o mi appartiene. Subito dopo la lettura del proclama calò il silenzio, mentre i presenti facevano i conti con quello che avevano appena ascoltato. Era mai possibile? La contessa di Toscana, la donna più potente d'Europa, stava davvero per cedere alla Chiesa tutti i suoi beni terreni? Aveva davvero proclamato che tutti i suoi possedimenti, che costituivano quasi un terzo dell'Italia e di certo erano i territori più ricchi e strategici, adesso erano sotto il controllo assoluto di Gregorio VII? Era sconvolgente, un fatto senza precedenti ed era geniale. In un colpo solo Matilde aveva protetto la Toscana, rafforzato il papato e quindi tutta Roma, mentre indeboliva la rivendicazione dei territori italiani da parte di Enrico. Le famiglie romane e i cardinali furono sopraffatti da quella straordinaria dimostrazione di devozione e di generosità. Gregorio doveva di certo essere un uomo santo e rispettabile, più che degno di portare la tiara papale, se aveva conquistato per la Chiesa una donazione immensa e senza pari come quella. Matilde fu subito acclamata salvatrice di Roma, mentre per tutto il Laterano si levava il grido: Dio benedica la contessa Matilde, possa vivere per sempre. Matilde trasferì la sua abitazione a Roma per trascorrere i successivi 3 anni insieme al suo diletto Gregorio e per provvedere all'amministrazione dei propri territori attraverso la Chiesa. Stipulò patti speciali affinché il monastero di San Benedetto Po venisse protetto dal pontefice in eterno, poiché questo era ormai un significativo avamposto dell'ordine, oltre che la dimora di suo figlio. Matilde e il Papa divennero inseparabili durante il loro periodo a Roma e tuttavia, data la generosità della contessa nei confronti della Chiesa, nessuno osava dire nulla. La sua presenza era accettata, se non sempre onorata, in conseguenza della sua straordinaria donazione. Dimostrava il suo immortale amore per San Pietro. Don Izzone, nello scrivere dei giorni di Matilde e Gregorio, in seguito disse: «La saggia contessa custodiva nel cuore le parole di quel santuomo, così come la regina di Saba custodiva le parole sacre di Salomone». Per Matilde, la dichiarazione con cui lasciava in eredità al pontefice i suoi beni era stata indolore. Dopotutto era suo marito. La reazione di Enrico al bizzarro piano di Matilde e Gregorio di lasciare la Toscana, la sua Toscana, al trono di San Pietro fu quella di chiedere nuovamente che il Papa venisse deposto. Il re questa volta superò se stesso nominando un antipapa al posto di Gregorio. Guiberto, l'arcivescovo di Ravenna, che aveva servito il padre di Enrico prima di lui, fu eletto papa dai vescovi scismatici tedeschi. Gregorio rispose scomunicando Enrico per la seconda volta e scomunicò anche l'antipapa Guiberto per la seconda volta. La guerra era iniziata ed Enrico era deciso a combattere, ma ormai era un conflitto estremamente personale. Il re stabilì di pugnalare alle spalle la cugina, riducendo l'influenza che aveva sul luogo più sacro per la sua gente, Lucca. Enrico occupò Lucca e aizzò il popolo contro la contessa e il papa, espellendo il vescovo Anselmo e confiscando la proprietà che apparteneva all'ordine. Grazie alla provvidenza il libro rosso era stato messo in salvo, così come il maestro e gli altri membri anziani dell'ordine che si erano trasferiti a San Benedetto Po sotto la scorta armata di Con. Ma Lucca si separò dal ducato di Toscana chiedendo l'indipendenza da Matilde e appoggiò l'antipapa in combutta con gli scismatici signori lombardi che erano fedeli a Enrico. Matilde fu straziata da quella perdita, ma ebbe poco tempo per rammaricarsi perché Enrico continuava a sferrare attacchi sempre più violenti, sia contro la Toscana, sia contro il papato. Matilde aveva motivo di essere allarmata. La teatrale donazione che aveva fatto alla Chiesa la proteggeva da Enrico, ma solo finché il Papa regnante fosse stato fedele a lei e avesse continuato a darle la libertà di amministrare i territori a suo piacimento. Se Gregorio perdeva terreno e veniva rimpiazzato dall'antipapa di Enrico, Matilde rischiava di perdere tutto quello che lei e la sua famiglia avevano lottato per costruire e proteggere. Ed Enrico acquistava forza, dato che i duchi dell'Italia settentrionale, molti dei quali erano schierati con i contingenti scismatici sin dai primi giorni dell'investitura di Gregorio, si erano uniti per sostenere l'antipapa con la speranza di evitare un'invasione delle truppe tedesche. L'equinozio di primavera del 1081 non portò con sé festeggiamenti per il compleanno di Matilde, come si faceva di solito. Invece portò pericolose e preoccupanti notizie. Enrico IV aveva valicato le Alpi ed era diretto verso gli Appennini. Con un esercito invasore al seguito stava andando a reclamare la Toscana. Matilde e Gregorio passarono quella notte nella torre dell'isola Tiberina a discutere in modo pacato le loro opzioni. L'unica alternativa era che Matilde tornasse in Toscana subito e avviasse le azioni necessarie per difendere i suoi territori. Fu un momento difficile e triste quello in cui considerarono la loro disastrosa situazione. Il re tedesco stava per attaccare con grande impeto e per contrastarlo sarebbero state necessarie tutte le truppe di Matilde, truppe che Enrico aveva sistematicamente decimato negli ultimi 4 anni. «Non so quando ti rivedrò, mia colomba», disse Gregorio, attirandola fra le sue braccia per darle un bacio. Mentre parlava, le carezzò la guancia con le sue dita lunghe e giocò con aria distratta con le ciocche di capelli che le incorniciavano il viso. Sembrava che stesse memorizzando tutto di lei. «Questa guerra si fa sempre più crudele. La provvidenza divina ti manda in Toscana e allo stesso tempo pretende che io rimanga qui a difendere la mia posizione a Roma. Dobbiamo arrenderci alla sua volontà, naturalmente, ma non posso dire certo di capirla. Matilde aveva gli occhi pieni di lacrime mentre stringeva le mani sopra le sue. La volontà della provvidenza sarà fatta, Gregorio, come deve essere sempre. Un giorno da qualche parte la capiremo, anche se quel momento non è oggi. Forse questa è la prova più grande che dobbiamo superare come amato e amata, la prova di Salomone e della regina di Saba. Capire che dobbiamo separarci quando il dovere lo richiede, pur sapendo che non saremo mai davvero divisi, perché siamo legati con il cuore e con l'anima, sin dall'inizio dei tempi. E ciò che Dio ha unito, Gregorio terminò la frase, l'uomo non separi. Quando Matilde tornò in Toscana, diede disposizioni di realizzare un'opera d'arte come dono per Gregorio. Fece portare il figlio a Canossa. Guidone ormai era un intelligente e vigoroso bambino toscano di 5 anni, con riccioli neri e occhi grigi, la copia perfetta di suo padre. Matilde stava seduta con lui sulle gambe, quando riusciva a farlo stare fermo, mentre il ritratto veniva realizzato da uno dei monaci di San Benedetto, un miniatore di grande talento. Dato che il dipinto doveva essere consegnato al pontefice in quei tormentati tempi di guerra, fu camuffato da tipico dipinto della Madonna con il bambino. Matilde indossò le sontuose vesti di seta azzurra che la contraddistinguevano in pubblico e si coprì i capelli con il tradizionale soggolo e il velo sotto la corona che la identificava come una discendente del nobile Carlo Magno. La tiara d'oro era ornata di fleur-de-lis e nella corona erano incastonate le stesse 5 gemme che si trovavano sulla copertina del libro rosso. La fortezza di Canossa fu dipinta alla sommità della tela e la colomba perfetta della loro tradizione si librava sopra l'immagine della sacra maternità. Per un occhio ignaro, quello era un devoto ritratto della Vergine con il bambino. Per Papa Gregorio VII era l'adorata immagine di sua moglie e suo figlio. Salerno 1085. Gregorio VII stava morendo. I suoi ultimi anni di vita avevano messo a dura prova la sua fede. Se avesse avuto la possibilità di stare vicino a Matilde durante quella prova, avrebbe potuto sopportare qualsiasi cosa fosse stata messa sul suo cammino, ma erano separati da 4 anni, da quella notte trascorsa a Roma. Era strano, ma in qualche modo entrambi avevano saputo che quella sarebbe stata l'ultima notte che passavano insieme. Il ritratto che Matilde gli aveva inviato, dopo essere tornata in Toscana, era stato il suo modo per comunicargli che erano destinati a non incontrarsi mai più, nella carne almeno, in quel mondo e in quel tempo. La profonda spiritualità mistica che in lei coesisteva con la tempra guerriera e regale aveva dato a Matilde la certezza che la loro separazione sarebbe stata permanente. Tuttavia, sapeva bene, come lui, che era solo fisica. I loro spiriti rimanevano uniti, i loro cuori e i loro sogni erano una cosa sola. Quando Enrico aveva marciato su Roma, Matilde aveva mandato tutte le forze che era riuscita a radunare in Toscana a difendere Gregorio. Quando nelle sue terre non c'erano stati più uomini in grado di portare le armi, aveva venduto tutto ciò che possedeva e aveva assoldato mercenari da ogni regione d'Europa. Aveva persino fatto fondere i suoi gioielli personali, tutti tranne l'anello che le era stato donato per il suo 16° compleanno. Aveva saccheggiato i suoi stessi monasteri, le sue stesse chiese, sacrificando qualunque cosa potesse essere usata per pagare rinforzi per la causa papale. Negli ultimi 2 anni Matilde di Toscana aveva pregiudicato la propria posizione e dato fondo alle sue ricchezze personali nel tentativo di difendere l'uomo che amava e la loro causa comune. Il fatto che tutto ciò non fosse stato sufficiente, che non era riuscita a salvarlo, erano stati i suoi più grandi dolori. Dopo una lotta lunga e sanguinosa, Enrico era riuscito a deporre Gregorio e a insediare un papa fantoccio sul trono di Pietro. Gregorio era stato costretto ad andare in esilio nella città costiera di Salerno, dove la sua famiglia possedeva una residenza. Aveva cercato di ottenere rinforzi dagli alleati normanni, ma ormai il potere di Enrico in Italia era troppo grande. Il papato di Ildebrando di Soane era finito e con esso la sua vita. Durante l'esilio non era riuscito a scrivere alla sua amata né a salvare Roma dal tiranno che si faceva chiamare re. Stremato da tante prove e colpito da una grave malattia, Gregorio chiamò uno dei pochi uomini di cui si fidava e gli chiese di scrivere un'ultima lettera che avrebbe dovuto essere recapitata attraverso le pianure italiche dilaniate dalla guerra. Diede all'uomo uno dei pochi tesori che gli erano rimasti, un anello d'oro con un cameo in corniola in cui era intagliata l'immagine di Pietro, e gli fece giurare che quella lettera e il pacchetto che vi avrebbe unito sarebbero giunti a destinazione. Il messaggero era un uomo intrepido e di parola e portò a termine l'impresa. Nelle ultime parole annotate da uno scrivano, Gregorio VII sussurrò: «Ho amato la giustizia e odiato l'iniquità, per questo muoio in esilio». Canossa, giugno 1085. La notizia della morte di Gregorio fu portata a Matilde da Con, ma non la colse di sorpresa, lo sapeva sin dal momento in cui era venuta. Non perdi l'altra metà della tua anima senza sentirlo in ogni parte del tuo essere. Gli disse con voce fioca: Lo piango da settimane, da molto prima che la notizia giungesse a Canossa. Con chinò il capo. Era stato lontano per risolvere una crisi militare dopo l'altra e non aveva potuto consolarla come avrebbe voluto. Matilde era regale nel suo dolore, come una regina che ha perso il suo re, ma sa di avere un compito da portare avanti per il bene del suo popolo. Matilde, oggi un messaggero ha portato un pacchetto. Viene da Salerno. Matilde vacillò, questo non se lo aspettava, riuscire a far arrivare un messaggero da Salerno passando per Roma e per la Toscana nel clima di guerra costante che regnava nella penisola era quasi impossibile. Il fatto che fosse arrivato sano e salvo era senza dubbio un dono della provvidenza divina. Prese l'involto che Con le porgeva e lo aprì con cura, recitando una preghiera di ringraziamento perché era arrivato qualcosa che forse gli avrebbe concesso un ultimo momento con il suo diletto. Si ritrovò fra le mani il ritratto suo e di Guidone, la figura vestita di azzurro dipinta come una Madonna con il bambino che aveva mandato a Gregorio 4 anni prima, con una lettera che l'accompagnava.